Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. La bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. E quale ho sparato un bel Ippocrate. Quello che mi piace di più è quando io mi sveglio e sento l'odore della melanzana fritta. Devi venire a casa mia. Ah, vedi sì. Che io ho detto allora, finalmente la prendo adesso, perché intorno a un tavolo uno diventa subito amico. E allora sedetevi anche voi. Buongiorno, buongiorno, accomodatevi, c'è posto per tutti. Siete pronti? Sedetevi, anche se ben distanziati, ci stiamo tutti. Proprio tutti, dagli esperti ai personaggi famosi, passando addirittura ai grandi poeti. Vi ho incuriosito, eh? Mm-hmm. Dai, sedetevi intanto, chiamate qualcuno, qualche amico, seguitemici naturalmente sui social, diteci che cosa state facendo, che cosa state preparando, che profumo c'è a casa vostra, melanzane fritte magari. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni. Prendiamoci cura di noi, coccoliamoci un po'. Il pranzo della domenica, tutte le caratteristiche per farlo. Stiamo in famiglia, siamo un pochino più rilassati, abbiamo più tempo, facciamo due chiacchiere in più. Fate due chiacchiere anche con la vostra Nico, dai. Scriveteci che cosa state facendo, che cosa vi piace. Ricordate la nostra nuova rubrica E adesso cosa mangio? Quindi fateci le vostre domande al nostro numero di WhatsApp che trovate sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Oggi ci prendiamo cura di noi, del nostro sistema immunitario, del nostro girovita, del nostro umore. Ci aiuta il professor Lelio Morricone, che è tornato a trovarci. Buongiorno. Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Responsabile del servizio di nutrizione clinica all'Istituto Clinico Sant'Ambrogio di Milano, gruppo San Donato. Professor Morricone, prendiamoci cura di noi e delle persone che amiamo, partendo proprio dalla tavola. Io oggi vorrei darle tre parole che compongono un po' il nostro menu e sono alimentazione, coronavirus e sistema immunitario. A lei la sfida di legarle insieme e di darci dei consigli gustosi e salutari. Vai! Certamente sono tre concetti che stanno strettamente insieme e che sono strettamente collegati. Uno potrebbe domandarsi cosa c'entra il coronavirus, è magari una moda, invece no, non è così. L'evidenza scientifica ha dimostrato che questo virus purtroppo fa molti più danni e danni molto più gravi, per esempio in soggetti che hanno il sovrappeso o l'obesità. E questo è già un primo dato che ci deve far comprendere come un'alimentazione scorretta, che sta appunto alla base del sovrappeso e dell'obesità, possa indirettamente quindi favorire una cattiva prognosi di questa epidemia che purtroppo sta interessando tutti quanti. E l'altro legame è, trattandosi di una noxa esterna, di un virus in fin dei conti, comprendere come effettivamente il corpo umano si difenda da questo tipo di attacco, e tutti sanno che per fare questo noi abbiamo un sistema immunitario che fa il suo mestiere, cioè difenderci appunto dalle aggressioni esterne. Ed è legittimo pensare se i nostri comportamenti, ma soprattutto le nostre scelte alimentari siano effettivamente in grado di aiutare il sistema immunitario a funzionare meglio. Quindi io credo che la concatenazione e la correlazione esista e sia ben motivata dal punto di vista scientifico. Professor Morricone ha superato brillantemente la prova. Grazie. Noi oggi insieme a lei vogliamo capire come, a partire dalle scelte alimentari, possiamo, mi passi il termine, non è scientificamente corretto ma rende l'idea, rafforzare il nostro sistema immunitario e quindi da un lato aiutarlo a resistere alle aggressioni dei virus. Ci sono anche le sindrome influenzali e del coronavirus. Lei ci deve raccontare se e come possiamo farlo, che cosa dice la letteratura scientifica a proposito. Quindi noi ci sediamo a tavola, vi sedete anche voi, accomodatevi, facciamo una piccolissima pausa, ma voi nel frattempo potreste approfittarne per mandare la domanda ai nostri esperti. Adesso che cosa mangio? Questa è la rubrica che abbiamo inaugurato la scorsa domenica, ha avuto grande successo, molti di voi hanno mandato dei messaggi vocali, vi ricordate il numero? Ve lo dico, 335, dai, 335, facile, 830 4306. Se non ve lo ricordate, avete due possibilità. La prima, andare sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, l'abbiamo messo lì. Se no, scrivete all'amico Obiettivo Salute @radio24.it, va ben gli stessi. Allora, noi ci fermiamo a questo punto, il professor Morricone si sta preparando e restate con me. La bufala in tavola. Siamo tornati, accomodatevi insieme a noi. Oggi il professor Lelio Morricone, responsabile del servizio di nutrizione clinica all'Istituto Clinico Sant'Ambrogio di Milano, Gruppo San Donato. Professor Morricone, e adesso cosa mangio? Il titolo di questa nostra nuova iniziativa, ma è la domanda che le giro, perché professore, iniziano i primi freddi, sindrome influenzali, abbiamo i dati che ci raccontano che il numero dei contagi sta aumentando. Noi possiamo attrezzarci per resistere, per rendere più forte il nostro sistema immunitario? Adesso che cosa mangio, professor Morricone? Certamente esistono delle indicazioni che supportano il fatto che una sana alimentazione possa, per così dire, mantenere ben oliato il sistema immunitario e quindi renderlo più capace di contrastare le aggressioni esterne. Ma cosa non deve mancare o cosa devo aggiungere? Ecco, quando si parla di sana alimentazione, considerando che ci sono alcuni oligoelementi che sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema immunitario, bisogna sempre al primo posto mettere le famose 5 porzioni di vegetali al giorno, tra frutta e verdura, tenendo conto naturalmente della stagionalità e tenendo conto che gli alimenti di origine vegetale sono molto spesso veicolo di vitamine o di alcuni sali minerali, di alcuni minerali che possono appunto contribuire al buon funzionamento del sistema immunitario. Professore, lei mi parla di vitamine e in questa stagione c'è la regina delle vitamine che invitiamo spesso sulla nostra tavola per proteggerci dalle malattie del raffreddamento. Parlo della vitamina C. Che evidenze ci sono? È una vitamina che ci piace, che ci è simpatica, la troviamo un po' ovunque negli agrumi, ma ne sono ricche anche alcuni tipi di verdura, ne sono ricche anche i kiwi, ma anche, per dire, anche i ravanelli, la rucola. Quindi è facile procurarsi la vitamina C, ma ha davvero questo effetto protettivo? La vitamina C è indubbiamente una sostanza capace di un elevato potere antiossidante, quindi in qualche modo di protezione cellulare, ecco, per dirla in modo un po' semplice. Questo potere antiossidante si traduce anche in un miglior funzionamento del nostro sistema immunitario, perché viene appunto a essere posto nelle condizioni di funzionare al meglio. Naturalmente occorre tenere presente che è molto importante che la vitamina C venga rifornita in modo naturale, quindi per esempio con gli alimenti che hai detto tu, Nicoletta, prima, o con un lungo elenco di alimenti, dal kiwi al peperone giallo, che contengono molta vitamina B, molta vitamina C, al di là evidentemente degli agrumi, che sono quelli che si vengono citati più spesso, anche se in realtà dal punto di vista della concentrazione non sono proprio quelli che ne danno di più. Però è molto importante, ricorrendo a frutta e verdura di stagione, andare a ricoprire il nostro fabbisogno, un fabbisogno abbastanza modesto, quello di vitamina C. In realtà non ci sono dati che dicano che se noi forziamo l'apporto di vitamina C anche artificialmente si ottenga chissà quale vantaggio. L'importante è rifornirla al corpo nelle giuste quantità, e la natura è in grado di darci questa possibilità. Mangiando le famose 5 porzioni di frutta e verdura, sicuramente, frutta e verdura aggiungiamo sempre di stagione, sicuramente la vitamina C è assicurata. Sì. Ma che cosa mi dice d'altro, professore? La vitamina C, in un po', insomma, lo sappiamo tutti e ci affidiamo volentieri. Ma che cosa c'è? Qualche altro suggerimento? Io direi che è molto importante sottolineare, sempre a proposito del benessere del nostro sistema immunitario, che utilizzando frutta e verdura noi introduciamo fibra. Questa è una cosa nota e tutti sanno che la fibra è raccomandata dal punto di vista dell'equilibrio nutrizionale. Ebbene, la fibra serve per mantenere in equilibrio e ben attivo il famoso microbiota intestinale, che è diventato all'attenzione, diciamo, negli ultimi anni anche della ricerca scientifica. Una vera star, però è assolutamente inequivocabile il fatto che se il microbiota intestinale gode di buona salute, il sistema immunitario, che è strettamente collegato al microbiota intestinale, possa funzionare in modo efficiente. Al contrario, se noi ci nutriamo con alimenti di cattiva qualità, e mi riferisco in particolar modo a un eccesso di zuccheri semplici oppure a grassi di cattiva qualità, ebbene anche il microbiota ne può risentire, e evidentemente quindi una cattiva alimentazione in questo caso può arrivare a compromettere il buon equilibrio del microbiota e quindi indirettamente anche il discorso del sistema immunitario. Professor Morricone, ho letto cose interessanti sul selenio. Noi ne abbiamo un fabbisogno estremamente modesto, siamo nell'ordine dei 50 microgrammi al giorno. Lo troviamo soprattutto in alimenti di origine animale, anche nella carne rossa, ma anche nei molluschi, in alcuni prodotti della pesca, meno in alimenti di origine vegetale, ed è un cofattore, cioè è una specie di metallo, non è proprio un metallo, che serve per far funzionare al meglio alcuni enzimi. E questi enzimi sono coloro che coordinano in alcuni casi anche il buon funzionamento della risposta immunitaria. Quindi anche qui avere presente che un'alimentazione varia, in cui non siano esclusi per forza alcuni alimenti, perché in questo caso mi posso riferire alla carne rossa, che tutti sappiamo che se può essere utilizzata ed impiegata in quantità ragionevoli non fa male, no? Certo. Abbiamo sempre la nostra linea, che è quella che non ci sono gli alimenti che fanno male, quelli assolutamente, che fanno bene. Assolutamente. Ci sono quelli che fanno male se vengono ingeriti in quantità eccessive, e quelli che fanno bene se sono introdotti nel contesto di un'alimentazione equilibrata. Ecco. Professore, quindi vitamina C, selenio, vogliamo aggiungere qualcosa alla nostra tavola? Per esempio anche lo zinco, che è invece un oligoelemento che è abbastanza presente, è rappresentato nel corpo umano subito dopo il ferro dal punto di vista dell'importanza, e che viene per esempio ad essere ritrovato, questo sì, anche in prodotti di origine vegetale, per esempio alcuni tipi di frutta secca, i legumi, i funghi. Ecco, lo zinco è un altro oligoelemento che sembrerebbe, diciamo, garantendone un apporto adeguato, a aiutare il buon funzionamento del nostro sistema immunitario. Anche qui, naturalmente, l'apporto deve arrivare naturalmente tramite i cibi. Professor Morricone, quindi l'indicazione è mangia bene, nutriti meglio, e chi si nutre meglio rende il proprio organismo in grado di difendersi naturalmente con maggiore efficacia. Assolutamente. Ma, professore, non possiamo fare a meno di ricordare che una data importante è quella di ieri, Obesity Day, una giornata per aiutarci, per sensibilizzarci a cercare di ritornare al peso forma o mantenere un peso forma. Perché? Perché il sovrappeso e l'obesità, professor Morricone, sono dei fattori di rischio per tante malattie, ma adesso i dati ci dicono che nel caso del coronavirus possono predisporre a forme più gravi di Covid-19. Professor Morricone. Si è visto in maniera molto chiara che l'eccesso di peso, e direi soprattutto l'eccesso di grasso a livello addominale, è un fattore che rende i soggetti più suscettibili all'infezione, e qualora purtroppo l'infezione si instauri rende i soggetti più suscettibili ad avere una prognosi peggiore. E quindi l'obesità, guarda caso, costituisce un elemento, ahimè, che peggiora la prognosi degli individui, anche quando si parla di Covid. Ma voi non dovete avere paura. Se avete qualche dubbio, se volete essere aiutati, adesso cosa mangio? Ci siamo noi, Laura Vanossi, la Nico, volentieri, ma soprattutto ci sono i nostri esperti che rispondono alle vostre domande. 335 830 4306, questo è il numero per mandare i vostri WhatsApp. Se non avete voglia di mandare un messaggio vocale, non importa, potete sempre scriverci, noi li leggiamo e li giriamo ai nostri ospiti, che sono naturalmente ben felici di rispondere. Infatti anche il professor Morricone è stato in qualche modo coinvolto in questa iniziativa, professore, e le passo una domanda, la prima domanda che è arrivata, e quindi gli abbiamo dato subito spazio. Soffro di diverticolite e adesso cosa mangio? Allora bisogna distinguere due aspetti estremamente importanti. La persona che ha i diverticoli ha una diverticolosi, cioè ha questi, diciamo, queste piccole estroflessioni nella parete dell'intestino, che però non sono né infiammate. Le lasciamo lì. E quindi questi soggetti devono avere come importanza fondamentale il fatto di far funzionare bene l'intestino. Quindi quando una persona ha i diverticoli deve mangiare tanta fibra e idratarsi adeguatamente, magari fare anche un po' di esercizio fisico. Il discorso che se uno ha i diverticoli non deve mangiare la verdura è un discorso che non soltanto è senza senso, ma è addirittura controproducente, perché se noi introduciamo meno fibre abbiamo il rischio di esporsi a stipsi, e questo può essere sì una ragione di infiammazione. Poi se i diverticoli si infiammano viene una condizione particolare, che però è una condizione acuta e che certe volte richiede un intervento molto pronto dal punto di vista medico, e questa si chiama diverticolite, anche diverticolite acuta. Bene, in questi casi l'intestino va messo a riposo, e quindi in fase acuta certamente la fibra e ogni cosa che possa rappresentare un sovraccarico deve essere eliminata, ma solo se c'è una manifestazione di carattere infiammatorio, altrimenti i portatori di diverticoli devono essere incoraggiati a mangiare tanta fibra. Professor Morricone, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima domenica. Altrettanto a voi. E noi continuiamo con la nostra rubrica Adesso cosa mangio, e alla seconda domanda ci aiuta a rispondere il professor Filippo Murina, responsabile del servizio di patologia del tratto genitale inferiore dell'ospedale Buzzi di Milano. Professor Murina, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, la disturbiamo di domenica perché abbiamo parlato di diverticoli. Rimaniamo un po' in zona pancia, anche se scendiamo un po' di più. Una nostra ascoltatrice ci scrive: soffro di candida e cistite e adesso che mangio? Noi sappiamo sicuramente che una predominanza, ad esempio, di carboidrati, di zuccheri semplici può modificare quella che è l'attività della candida, renderla un pochino più aggressiva. Come sappiamo anche che alcuni alimenti come speziati, come particolarmente acidi, possono stimolare la vescica. È fondamentale anche perché questi alimenti agiscono prevalentemente anche a livello intestinale e intestino e vagina parlano, dialogano. È importante da questo punto di vista comprendere che non bisogna essere integralisti. Cosa vuol dire? Non bisogna eliminare completamente questi alimenti dalla dieta, perché ciò non porta a un reale beneficio, c'è un adattamento negativo. I germi buoni comunque hanno bisogno di alcuni di questi costituenti come carboidrati. Bisogna evitare i sovraccarichi, soprattutto quali sono gli alimenti ad esempio elevato contenuto glicemico? Sono ovviamente la pasta, le patate ad esempio, i lievitati, i dolci. Questo quindi vuol dire che bisogna evitare di associare troppo, soprattutto in soggetti predisposti, queste sostanze affinché si eviti una riaccensione della candidosi e che questa possa crearci problemi. Professor Murina, grazie per essere stato con noi, per aver risposto alla nostra amica. Intanto ci sentiamo presto, buona domenica. Grazie anche a tutti voi. A prestissimo. Bene, allora adesso noi facciamo una pausa, voi state lì belli comodi, ritorniamo tra poco. La bufala in tavola. Riso bianco, riso rosso, una magia non posso. Riso bianco, riso nero, oggi sono più sincero. Riso bianco, riso azzurro, lo condisco con il burro. Eccoci qui di nuovo per il nostro appuntamento con i golosi della storia e con la nostra amica Marina Marazza, che ci porterà qualche curiosità inedita su quel che succedeva alla tavola dei grandi uomini, delle grandi donne che abbiamo conosciuto sui libri di scuola e che magari ci hanno fatto anche un po' soffrire. Marina, ciao! Ma buongiorno Nicoletta. Ma buongiorno a te, sono molto felice di ritrovarti e di scorrazzare con te un po' per la storia. Ma io voglio ricordare alle amiche, agli amici che ci stanno seguendo, che tu hai appena finito di scrivere questo libro che a me è piaciuto molto, ne abbiamo parlato tanto. Io sono la strega, edito da Solferino, e mi veniva in mente, prima di parlare, di passare al personaggio di oggi, le streghe, Marina. Beh, più che ricette, grandi piatti, facevano intrugli. Ah, certo, no? La strega una tradizionale, sì. Ce l'abbiamo in mente che lingua di serpente, di zampetta di piccione di nel calderone. In realtà la mia strega Caterina Dabroni era anche un'ottima cuoca, nel senso che essendo tra l'altro una donna che sapeva leggere e scrivere, era in grado anche di andare a prendere le ricette da questi grandi ricettari del 400-500, e lei fu anche al servizio di famiglie, diciamo, milanesi illustri proprio come cuoca. Quindi era una strega cuoca, una un po' particolare. Senti, ma noi dobbiamo aspettare Halloween per parlare della cucina delle streghe, oppure nelle prossime puntate ci racconti un po'? Come... Ma quando vuoi, con grande piacere. Ok, allora va bene. Allora, noi ci eravamo lasciati con il pollo di Napoleone. Aha. Ecco, di chi parliamo oggi? Oh, adesso passiamo da un condottiero a un poeta nostrano. Un po' come il pollo. Niente, un po' di meno che... Giovanni Pascoli. Un lato inedito che, di qualcuno che, Marina, lo sappiamo, ha fatto tremare gli studenti per anni sui banchi di scuola. Lui, proprio lui, quel Giovanni Pascoli che con le sue poesie ha scritto la storia della letteratura italiana, ma ha anche fatto piangere generazioni di studenti con la sua Cavallina storna. Sì, lui, proprio lui, proprio lui. Però oggi... Tranquilli tutti, non si interroga nessuno sulla poetica del fanciullino, e andiamo a presentarlo perché come lui un gourmet. Perché era romagnolo. Che è già detto tutto, brava. No? Perché in cucina la Romagna, voglio dire. E in effetti di Pascoli è proprio nota la passione per la buona tavola. E era un qualche cosa che in lui andava di pari passo con l'amore per le sue radici, sì, per la campagna, per i sapori semplici. Infatti a lui piacevano delle cose molto semplici, da fanciullino goloso, no? Se vogliamo riprendere quello che ci insegnavano le nostre prof. A lui piacevano le cose tipiche romagnole, tipo la piadina, le tagliatelle al ragù, le erbe di campagna cotte, quelle erbe un po' amare che da quelle parti lì si chiamano ragazzulle e che vengono usate per fare i cassoni, le piadine, quelle cose lì. Gli piaceva molto un formaggio semiduro che si chiamava bazotte, e che si metteva in mezzo alla piadina, poi fondeva, diventava tutto bello filante. Mamma così. Mia! E poi gli piaceva molto semplicemente il lesso, la carne lessa con le patate lesse, lui proprio lo scrive anche in certe lettere, sì. E anche il pollo arrosto, però fatto alla contadina, quindi tutta questa cucina del territorio, come la chiameremo noi oggi. Quindi scriveva: cosa ti preparo? Cosa ti preparo, Pascolino? Ma basta un lesso con due patate. Vabbè, esatto. vedi che uomo semplice, ma bello, un po' insomma, romagnolo, io un po' il debole. Sì. Senti, invece per quanto riguarda i vini? Ma i vini gli piacevano molto, era un amante dei vini, aveva una sua cantina molto ben fornita e tra l'altro aveva anche chiesto a un certo punto a dei suoi amici amministratori di tenute di mandargli dei tralci di viti di Sangiovese per piantare proprio, per diventare anche lui un produttore. E del resto lui nelle sue poesie tocca spessissimo il tema del cibo. Addirittura dedica proprio delle liriche a cose semplici come la piada, oppure fa una poesia dedicata a tutta la polenta che si intitola Il Desinare, dove descrive proprio anche come la si fa, come un rituale, no? Come questo gesto rituale contadino, no? E anzi lui mangiava parecchio, gli piaceva bere, e a un certo punto della sua vita i medici lo sgridavano anche un po', gli dicevano che doveva perdere peso, che doveva stare un pochino più attento. No? Era morbido, diciamo così. Senti, era morbido. Ma con tutte queste cose buone, quale specialità romagnola preferiva il Pascoli? Ma guarda, io oggi vorrei parlare di una specialità che non sembra tanto romagnola e che invece lo è, che è l'unica ricetta che lui mise in versi, perché questo è il divertente, che è il risotto romagnolesco che gli preparava sua sorella Mariù. Ma dai, addirittura mettere una ricetta in versi. Vabbè che era un poeta, Marina, ma c'è tutta una storia dietro, e tu hai ragione, è strano, però lui aveva conosciuto questo giornalista, questo Augusto Guido Bianchi, che lavorava a Milano, cronista del Corriere della Sera, e Guido gli aveva lanciato quasi una sfida, perché gli aveva scritto la ricetta in versi del risotto alla milanese. Allora, può sembrare una cosa strana, ma all'epoca ogni regione aveva le sue cucine, quindi per esempio Pascoli a Milano non era mai venuto, quando gli fanno assaggiare questo risotto alla milanese così dorato con lo zafferano, lui come poeta dice: ma che bello, sembra una cosa un po' magica, no? Un po' alchimistica. Sì. Allora il suo amico gli scrive questa ricetta in versi, no? fa fare il risotto alla moglie, si fa dire tutto dalla moglie, però le donne fanno queste cose un po' così, certo. No? Stanno in cucina, invece l'intellettuale, no? L'uomo, il maschio un po' snob, la ricetta la mette in rima, che così fa più, si può dire, più figo. Sì, dai, che si può. E quindi quando Pascoli riceve la ricetta del suo amico, dice: vabbè, allora io ti rispondo come in una tensione poetica con un'altra ricetta sempre in versi, che è la ricetta del risotto alla romagnola. E noi ce l'abbiamo. Nel tutto, sulla fine, diluire di zafferano un poco tu farai, perché in giallo lo abbia a colorire. Il brodo tu graduare ben saprai, perché denso sia il riso, allorché è cotto. Di grattugiato ce ne vuole assai, così avrai di Milan pronto il risotto. Beh, però... E questa era la ricetta del risotto alla milanese, quella che gli aveva mandato... L'amico, il cronista del Corriere della Sera, ma lui risponde... Ma lui risponde, e risponde in una maniera un po' da maestrino, perché all'inizio gli fa notare che nella poesia che ha scritto lui c'erano troppi tempi futuri, no? E gli dice... vabbè, amico, però anche lui, su! Sì, e beh, lui era un professore, quindi faceva il professore. Amico, ho letto il tuo risotto in AI, è buona, sai, soltanto un po' futuro, con quei tuoi tu farai, vorrai, saprai. Quello del mio paese è più sicuro, perché è presente. Ella ha tritato un poco di cipolline in un tegame puro, va messo il burro del color di croco, e zafferano è di Milano, a lungo, quindi ha lasciato il suo cibreo sul fuoco, tu mi dirai burro e cipolle. Aggiungo che v'era ancora qualche fegatino di pollo, qualche buzzo, qualche fungo, che buon odor veniva dal camino, io già sentivo un poco di ristoro dopo il mio greco, dopo il mio latino. Poi va spremuto qualche pomodoro, ha lasciato covare chiotto chiotto in fin ha preso un chiaro color d'oro. Soltanto allora ella va dentro cotto il riso crudo, come dici tu. Già suona a mezzogiorno. Ecco il risotto romagnolesco che mi fa Mariù. Grazie Marina per essere stata con noi, per averci grazie reso per più familiare. Diciamo la verità, in queste tue incursioni ci rendono più familiare personaggi noti che sentivamo magari un po' lontani, che ci hanno questa fatto è la sudare. Cosa importante. Sette camicie. Risultino più simpatici. Più simpatici perché vedi a tavola, la bufala in tavola, tutto diventa più familiare, si chiacchiera, si mangia, si scoprono nuove cose. Grazie Marina, torna con la strega. Grazie infinite, a prestissimo, buon appetito a tutti. Grazie, noi invece abbiamo un, cosa possiamo dire, un grande ritorno, ma è sempre qua, è sempre la bufala in tavola, è il nostro medicuoco quasi cuoco, il dottor Stefano Erzegovesi. Dottor Erzegovesi, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, non so neanche buona domenica più a tutti, buongiorno. È un piacere essere con voi. Anche a noi fa molto piacere, direttore del Centro Disturbi Alimentari dell'Ospedale San Raffaele di Milano, qua in veste di medicuoco quasi cuoco per parlarci di riso. Il riso è l'alimento del mondo e questo a me piace moltissimo, nel senso che noi mediterranei giustamente elogiamo la pasta, ma se noi andiamo a vedere il consumo, diciamo, del cereale più consumato nel mondo, è sicuramente il riso. È considerato il re dei cereali, infatti. Il re dei cereali ha una composizione che è molto interessante, perché diversamente dalla pasta ha una quantità proteica minore e quindi da questo punto di vista è meno nutriente. Però è una qualità proteica particolarmente digeribile e quindi da questo punto di vista è sicuramente un alimento da riscoprire, ma anche proprio come alimento quotidiano ad ogni latitudine. È ricco di amido? Ricco di amido, attenzione però all'amido, perché uno dei problemi del riso è che è un tipo di amido che a seconda di come lo cuociamo può cambiare molto il carico glicemico e quindi è importantissimo. Ma come gliel'ho servita, dottor Erzegovesi? Su un piatto d'argento la Nicola è stata un'alzata, un'alzatina, guardi, tac, è ricco pronta di amido. Lei no, non schiacci tanto perché si deve fermare, perché ritorniamo subito dopo insieme, andiamo a smascherare qualche bufala sul riso, impariamo a cuocerlo in modo corretto, soprattutto dobbiamo imparare anche a scegliere, perché non è facile, ce ne sono un po' di tutti i colori. Dottor Erzegovesi, resta con noi, noi facciamo una pausa. Cosa devo fare? Devo ricordarvi adesso cosa mangio, ma sì, 335-830-4306, devo provare anch'io a metterlo in versi magari. Se non vi ricordate il numero, non preoccupatevi, perché ci mandate una mail. A tra poco. La bufala in tavola. Bianco, rosso, nero, scegliete il vostro colore, scegliete il vostro riso, ci aiuta il dottor Stefano Erzegovesi, il nostro medicuoco quasi cuoco. Dottor Erzegovesi, tanti colori. Tantissimi colori, ma che vuol dire tantissima ricchezza di antiossidanti diversi. Ricordiamo sempre che il colore è un segno specifico della presenza di antiossidanti, soprattutto quando sono colori ricchi come il rosso o scuri come il riso nero. Quindi, prima cosa, distinzione proprio di base. Risi colorati, ma che vuol dire in sostanza risi integrali. Quindi riso nero, riso rosso o il classico riso integrale, diciamo, beigiolino. Dall'altra grigetto parte, anche, no? Grigetto, ma che poi cuocendolo possiamo così vivacizzare. Dall'altra parte invece i risi bianchi, io considererei tre grandi categorie, che sono i risi bianchi classici della nostra tradizione italiana e quindi quelli per fare il risotto, che sono cosiddetti a chicco semitondo. Sì. Poi ci sono invece i risi orientali, che sono invece a chicco cosiddetto lungo, tipo il basmati, il più famoso. E poi c'è il riso parboiled, che è un riso con una storia antichissima e quindi non pensiamolo assolutamente come un riso sofisticato, perché si tratta semplicemente di un riso che è stato trattato con del vapore che ha spostato all'interno del chicco una serie di vitamine e di principi nutrienti utili e quindi, anche se poi viene sbucciato, conserva un po' più di nutrienti del riso normale e ha un indice glicemico più basso, quindi più favorevole perché è un po' più duro. Ha una consistenza che non è adatta a certi piatti, quindi non si può usare sempre, però secondo me è una cosa da tenersi in dispensa anche questo. È un po' più giallo come colore? È un po' più giallino proprio perché una parte delle vitamine del gruppo B e dei sali minerali che normalmente sono negli strati immediatamente sotto la corteccina vengono spinti dentro dal vapore, e questo diciamo che gli fa guadagnare qualcosina. Dottor Zecovesi, è vero che viene suggerito agli sportivi perché conserva un aminoacido importante per il metabolismo del sistema muscolare? Ma la Nicole sa veramente... Ma dai, adesso mi prende sempre in giro, ma non è giusto, io studio. Sì, nel senso che è vero che il profilo aminoacidico del parboiled è un profilo aminoacidico più ricco, però diciamo anche, esattamente come gli sportivi che dicono o basmati o niente o parboiled o niente, la differenza in realtà è significativa nel momento in cui lo mangiamo in quantità largamente superiore al mezzo chilo, quindi non una quantità così apprezzabile. Però è sicuramente vero che tra le cose che conserva meglio il parboiled ci sono anche dei nutrienti plastici come sono gli aminoacidi, quindi assolutamente corretto. Lei ci ha parlato del riso rosso. Il riso rosso viene associato spesso alla sua capacità di tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. Attenzione, il riso rosso, che fa benissimo perché ha delle ottime fibre, perché il rosso gli dà una componente di antocianine, quindi di antiossidanti che ci fanno bene al corpo e anche alla mente, fa benissimo, mangiamolo, anche un aroma un pochino più tostato, noccioloso, e quindi anche buono da mangiare anche con condimenti semplici. Ma quello che c'entra col colesterolo non è il riso rosso, ma è il riso rosso fermentato, che vuol dire si usa questo fungo che si chiama Monascus purpureus, che appunto fa diventare rosso il riso. Praticamente questo parassita, questo microorganismo, mangiando il riso, che a quel punto è l'alimento per lui, non per noi, produce monacolina. La monacolina è questo principio naturale che è simile come azione farmacologica alle statine e quindi in qualche modo ha effettivamente un'azione farmacologica assolutamente utile per chi soffre di colesterolo alto. Ma lì il riso rosso è come dire è per dar da mangiare al microorganismo, certo, e non mangiarlo noi. Non è la confezione di riso rosso che troviamo al supermercato, nel negozio degli alimentari. No, altre cose. Grazie, perché così chiave fermentata. Bravo, così facciamo un pochino di chiarezza. Non era una bufala questa, ma ne sappiamo una in più per scegliere. Dottore Zecovesi, riso bianco. Il riso bianco lo associamo alto indice glicemico. Ecco, e allora anche qui abbiamo qualcosa da dire. E schiacciamo, nel senso, attenzione, il riso bianco, come noi diciamo, siamo gentili con le verdure, siamo gentili anche col riso bianco, perché si è portato dietro una fama pessima e assolutamente immeritata. Il riso bianco è verissimo che ha un indice glicemico alto, ma ha un indice alto nel momento in cui lo stracuociamo, cioè nel momento in cui facciamo delle cotture che non sono adatte. Quindi impariamo a trattarlo bene. Due modi principali per trattarlo bene, quindi per renderlo quel tanto più compatto che gli serve poi a darci tutte le sue qualità nella maniera migliore. Primo modo, cotture con alta temperatura e basso tempo di cottura, tipicamente la pentola a pressione, che spesso associamo a qualcosa di aggressivo, ma che in realtà è meno aggressivo proprio perché il tempo è più basso. Tipicamente noi facciamo una cottura all'orientale, quindi mettiamo una parte di riso e due parti di acqua e lo facciamo per assorbimento, quindi alla fine deve rimanere completamente asciutto. Buttiamo tutto, anzi meglio ancora, facciamo bollire l'acqua, quindi il riso entrerà nell'acqua, che l'acqua è già calda, quindi fa una sorta di pellicola protettiva esterna che appunto lo compatta e lo rende più resistente in termini di indice glicemico. Chiudiamo la pentola a pressione, metà e anche un pochino meno del tempo di cottura che troviamo sulla confezione del riso. Tutto sotto l'acqua fredda, perché se la pentola a pressione aspettiamo che sfiata, in realtà continua a cuocere, quindi a quel punto sarebbe realmente stracotto, e lo serviamo. Mangeremo un riso assolutamente chicco integro, indice glicemico basso, quindi utilissimo. L'altro modo, facciamolo tostare anche a secco, quindi non preoccupiamoci, cioè quello che rende l'indice glicemico basso di un chicco di riso nel risotto non è il soffritto piuttosto che il grasso che mettiamo all'inizio, ma è il riscaldamento della superficie esterna che fa una sorta di piccola tostatura. Quindi Quindi noi mettiamo il riso nella nostra casseruola, nella nostra pentola per farci il risotto, lo facciamo andare facendolo sempre girare bene con un cucchiaio di legno e lo facciamo tostare. Quando è che il riso è tostato? Tocchiamolo con le mani. Se riusciamo a prenderlo con le dita vuol dire che non è ancora tostato. Se sentiamo che ci stiamo scottando prendendolo con le dita, quello è il momento giusto, perché si inizi da lì la cottura del risotto, ma a questo punto il chicco è già protetto e quindi è pronto per essere molto più buono, perché sotto i denti sarà bello compatto e non tutto spappolato, e molto più salutare per la nostra glicemia. Grazie dottor Arzegovesi per questi suggerimenti, mi fa venire l'acquolina in bocca. Intanto io vorrei ricordare, a proposito di riso, voglio ricordarvi un'iniziativa molto bella, si intitola proprio Tutti Matti per il Riso, è un evento nazionale di raccolta pubblica di fondi a favore del progetto Itaca in occasione della giornata mondiale della salute mentale che si è celebrata ieri, di cui abbiamo parlato in Obiettivo Salute Weekend. Dottor Arzegovesi, buon risotto. Buon risotto anche a voi, e proprio risotto della domenica. Il bello giallo va benissimo. Bellissimo, alla milanese. Grazie. Alla milanese. Grazie al dottor Arzegovesi. Torni presto a trovarci. Buona domenica. Buona domenica e grazie a Paolo Corleoni, regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Io torno. Sì che torno. Torno domani dopo il GR delle 6, quindi 6 e 10, se siamo di nuovo insieme. Vi rimando naturalmente alle iniziative che abbiamo inaugurato la scorsa settimana. Una ve l'ho raccontata, adesso cosa mangi, e poi c'è l'iniziativa che abbiamo insieme a Engage Minds Hub, il centro di ricerca dell'Università Cattolica di Milano, con cui ci alleniamo psicologicamente ad affrontare una nuova quotidianità. Ci sono i compiti, gli esercizi sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Stiamo insieme, alleniamoci. Buona domenica. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su aruba.it.